Le 13 e un minuto. GR24, il sole 24 ore. Risanare i conti pubblici, dice il governatore Draghi, via libera del Senato e la fiducia del maxiemendamento sulla manovra. Inchiesta sulla P3, dopo le dimissioni di Cosentino, il CSM trasferisce Marra. Dopo la maxi operazione contro l'Andrangheta, a Radio 24 parla il presidente degli industriali calabresi De Rose. È una nuova primavera calabrese. In primo piano l'intervento del governatore di Banca Italia Draghi all'assemblea dell'ABI, incentrato sul risanamento dei conti pubblici. In diretta Maria Chiara Grandis. Sì, buongiorno. Prima di parlare dell'intervento del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, partiamo da quello del presidente uscente dell'ABI Corrado Faissola. Le banche italiane sono pronte ad aprire una nuova stagione di sviluppo e di progresso, ha detto dal palco del Palazzo Congressi dell'Eur, dove era in corso la 50ª assemblea annuale dell'ABI. Un discorso che Faissola ha pronunciato anche di fronte al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Per Faissola è arrivato il tempo del coraggio di intraprendere, investire, riformare, trarre stimoli nuovi dagli insegnamenti che la crisi ha fornito. Le banche italiane condividono lo sforzo in cui è impegnato il governo per riportare il saldo al netto degli interessi a un livello compatibile con la discesa del rapporto debito sul PIL. Come ricordavate, dopo Faissola ha preso la parola Mario Draghi, un'accelerazione del rientro degli squilibri nei conti pubblici è indispensabile per la ripresa, ha detto il governatore della Banca d'Italia, e sentiamo allora a questo proposito un passaggio del suo intervento. Consumi e investimenti restano deboli, perché i redditi reali ristagnano. Le prospettive di occupazione sono incerte. In tutti i paesi le politiche economiche sono più che mai intrecciate e interdipendenti nelle loro conseguenze. Un'accelerazione del rientro dagli squilibri nei conti pubblici è indispensabile. In altre parole, tutti noi cerchiamo di ridurre i deficit pubblici. Si potrebbe immaginare un effetto ancora positivo se questo rientro dai deficit ha l'effetto di ridurre il costo del credito, che è poi la variabile che più influenza la possibilità di ripresa. Draghi si dice fiducioso che gli stress test condotti a livello europeo mostreranno come le risorse patrimoniali delle banche italiane siano adeguate, banche che, dice Draghi, hanno un posto speciale nel sostegno alla crescita. Qui al Palazzo Congressi dell'Euro l'assemblea è appena terminata, alla parte privata ha partecipato anche il ministro dell'economia Giulio Tremonti, di ritorno dal Senato, che sulla crisi ha detto: andiamo avanti così perché fiducia porta fiducia. E da Roma è tutto, a linea a voi. Grazie Maria Chiara Grandi. Si è passata al Senato la fiducia sul maxi emendamento alla manovra, in diretta Andrea Viali. Sì, Daniele, con 170 voti favorevoli e 136 contrari è passata al Senato questa fiducia chiesta dal governo sulla manovra correttiva, un decreto, lo ricordiamo, che ora dovrà essere convertito in legge entro luglio dalla Camera, e la maggioranza ha fatto sapere che anche in questo caso si tratterà di un voto blindato dalla fiducia. Contro la manovra a Palazzo Madama hanno votato compatte oggi tutte le opposizioni. Per la Democratica Finocchiaro è un provvedimento ingiusto che non aiuta lo sviluppo e non contiene nulla né per i giovani né per il mezzogiorno. Si tratta di un testo necessario per mantenere gli impegni con Bruxelles e all'insegna del rigore, ma aprirà una stagione di crescita e di sviluppo, ribatte invece dalla maggioranza Gasparri del Popolo delle Libertà. Nella manovra, un intervento, lo ricordiamo, da 25 miliardi di euro, restano i tagli da 8,5 miliardi per le regioni, ma anche il contestato rinvio delle multe sulle quote latte. Dal Senato per ora è tutto. Da ottobre per le famiglie italiane novità in arrivo per i consumi di gas. Il Presidente dell'Autorità per l'Energia, Alessandro Ortis, nella sua ultima relazione annuale al Parlamento ha annunciato un contenimento delle bollette. Il gas in Italia è più caro mediamente di 3-4 centesimi di euro metro cubo, ovvero di oltre il 10% rispetto ai mercati all'ingrosso europei. Per tale differenza non sussiste una valida motivazione tecnica, salvo quella legata alla già lamentata scarsa concorrenzialità del mercato nazionale con un operatore dominante in tutte le fasi della filiera. Così, per trasferire sollecitamente ai consumatori i primi benefici emergenti dalle nuove dinamiche del mercato internazionale, rinegoziazioni di contratti a lungo termine e mercati spot, opereremo un contenimento dei prezzi al consumo a partire dal 1 ottobre prossimo, prima dei maggiori consumi invernali delle famiglie. In Europa prosegue a giugno il trend negativo del mercato dell'auto in Europa, in primis per Fiat. Mentre Mentre il mercato dell'auto, dopo un 2009 molto difficile, è ora in ripresa in tutto il mondo, le immatricolazioni di autovetture sono in frenata in Europa e in Italia. In particolare in Europa, dopo un primo trimestre in crescita del 9,5%, il secondo trimestre ha fatto registrare un calo del 7%. Analogo ma più accentuato l'andamento in Italia, dove a un primo trimestre in crescita del 23,3% ha fatto seguito un secondo trimestre in calo del 16,3%. Identiche le cause dei due andamenti, l'esaurirsi dei provvedimenti di incentivazione alla domanda e la debolezza della ripresa economica. Anche il gruppo Fiat risente pesantemente della fine degli incentivi, in quanto, disponendo della gamma più ecologica in Europa, nel 2009 era stato fortemente premiato dagli ecoincentivi ed ora perde terreno. La quota Fiat nel mese scorso è scesa infatti al 7,3% dall'8,6% del giugno 2009. Tornando al mercato europeo complessivamente considerato, le contrazioni più alte in giugno si riscontrano nei due maggiori mercati, la Germania che accusa un calo del 32,3% e l'Italia in calo del 19,1%. Gianprimo Quagliano, GR24, Il Sole 24 Ore, Bologna. La prima commissione del CSM ha deciso di avviare la procedura di trasferimento in ufficio per incompatibilità ambientale per il presidente della Corte d'Appello di Milano Alfonso Mara. Stiamo parlando dell'indagine sulla nuova P3, il suo nome appare in alcune intercettazioni. Sono contento che il CSM abbia aperto la procedura, così si chiarirà la mia posizione, ha commentato Marra. Giro di vite da parte del Vaticano per combattere i delitti dei preti pedofili. La prescrizione per questi reati passa adesso tra 10 a 20 anni. Gli abusi sessuali sugli handicappati psichici vengono equiparati a quelli sui minori, si introduce il delitto di pedopornografia. Sono in sintesi le modifiche al documento uscito nel 2000. Ora lo stato in Calabria c'è, parla così il presidente degli industriali calabresi Umberto De Rose. Dopo la maxi operazione contro la 'ndrangheta a Milano e a Reggio, scattata due giorni fa e che vi abbiamo ampiamente raccontato, è una primavera calabrese, dice ancora, difendendo però un modello diverso da quello siciliano, nell'intervista di Anna Migliorati. Lo Stato c'è in Calabria, i risultati si ottengono, non è vero che la Calabria è inespugnabile. Oggi che questa presenza dello Stato c'è, la gente comincia a respirare i risultati. È solo l'inizio. Ma mi sa che replica molto l'inizio del siciliano, insomma, di qualche decina d'anni fa in Sicilia, insomma. Il modello siciliano si è concluso con una presa di posizione forte anche da parte degli industriali, col presidente Lobello che ha deciso di l'espulsione di chi pagava il pizzo. Siete pronti anche voi? Noi, a differenza della Sicilia, avevamo detto che non avremmo emarginato l'imprenditore, cioè espellendolo, ma che avremmo, ovviamente lo avremmo accompagnato attraverso una denuncia collettiva. Cioè, noi ci siamo costituiti già parte civile in 3 degli importanti processi, ma noi abbiamo fatto una selezione a monte, abbiamo verificato a monte tutta una serie di imprese che in qualche maniera non ci davano tranquillità. All'atto del rinnovo dell'iscrizione, quando non ci davano tranquillità, non le abbiamo scritte. In Calabria sono state diverse decine di imprese, direi quasi centinaia di imprese non riscritte, numeri invece in Sicilia sono piccoli, perché in Sicilia credo che siano state espulse 3-4 aziende e tutto, cioè. Quindi io credo che quella non sia la soluzione giusta, almeno per la Calabria. La nostra strategia rimane quella, perché a nostro avviso sta dando risultati. Il tasso di crescita delle denunce per estorsione o per usura in Calabria è il più alto che nel meridione d'Italia, è cresciuto in maniera esponenziale. Questo mi fa dire che, insomma, voglio dire, siamo sulla strada giusta. Questo processo virtuoso, a mio avviso, dobbiamo saperlo sedimentare e farlo crescere. La pagina internazionale: Shahram Amiri, lo scienziato nucleare iraniano che dichiara di non aver mai lavorato nel nucleare, è rientrato a Teheran 13 mesi dopo la sua scomparsa. Al suo arrivo in aeroporto è tornato ad accusare non soltanto la CIA ma anche i servizi segreti dell'Arabia Saudita, parlando di un rapimento e di torture. Il parere di Stefano Silvestri, il presidente dell'Istituto Affari Internazionali, ai microfoni Cristina Balottelli. Naturalmente queste storie sono storie che a questo punto sono molto difficili da appurare, perché la propaganda gira al massimo. Infatti mi sembra che ci sia propaganda sia sul lato americano che sul lato iraniano. Diciamo che l'impressione non è che questo, che ci sia un grande problema americano, perché a questo gli hanno permesso di raggiungere l'ambasciata pakistana in America e di andarsene dagli Stati Uniti senza problemi, quindi di uscire anche dall'ambasciata. Non gli sarebbe stato permesso, ovviamente sarebbe dovuto restare, se non altro, anche ammesso che fosse arrivato all'ambasciata pakistana di nascosto, l'ambasciata pakistana è quella che cura gli interessi iraniani a Washington. Poi lo suo spostamento all'aeroporto sarebbe stato molto più complicato, perché avrebbe dovuto essere in qualche maniera passare sul territorio americano. È fallito il nuovo test della BP per contrastare la marea nera. La compagnia ha annunciato di aver interrotto le nuove operazioni per una nuova fuoriuscita di petrolio. Intanto i biologi americani lanciano un nuovo allarme. I danni provocati dalla marea nera sono stati tutti sottostimati dal governo. Alle 13:12 minuti vi saluta qui Daniele Biacchesi. Le prossime notizie su Radio 24 alle 14. GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.